in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Ci aggiorneremo sul traffico circa una mezz'oretta. Oltre a augurarvi una buona domenica, vi invito anche, se volete, se avete voglia, tempo, a mandarci i vostri messaggi, le vostre impressioni al 349-238-6666 con un sms o con un whatsapp, oppure se volete poi c'è il mio account twitter giulia_crivelli. Cominciamo come sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, che come molti altri giornali si concentra sulle elezioni americane. Mancano praticamente due giorni al cosiddetto Election Tuesday. Gli americani votano in questa tornata per le elezioni presidenziali e per il rinnovo del Parlamento, e non si sa bene ancora. Avrete seguito i sondaggi, ne parlano i giornali, ne parlano i telegiornali. Avrete seguito i sondaggi, i due candidati, Hillary Clinton e Donald Trump, sono sempre più vicini. Da qui il titolo del Sole 24 Ore: voto USA, sfida incerta, mercati senza bussola. E poi il sommario, che precisa che questa incertezza è data dagli acquisti sull'oro. L'oro, considerato bene rifugio, ha ricominciato a essere acquistato e quindi a salire di valore. Dollaro in altalena, e poi c'è stato il calo di Wall Street. Nei sondaggi Hillary è lievemente in testa su base nazionale, ma Trump rimonta negli stati chiave. C'è anche un richiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, oltre a tantissimi commenti sulle elezioni americane, al richiamo di ieri del Papa, e l'articolo di Carlo Marroni, il vaticanista del nostro giornale: vergogna, si salvano le banche e non le persone. Questo è il virgolettato di questa frase molto forte scelta dal Sole 24 Ore per parlare di questo intervento di Papa Francesco. La lettera al risparmiatore, l'approfondimento come ogni domenica su un titolo quotato, è Azimut, la sfida di Azimut, racconta Vittorio Carlini, che poi trovate tutto a pagina 18, contro la volatilità, più diversificazione estera del business. Ma visto che abbiamo citato subito il Papa, vi segnalo la prima pagina dell'Avvenire, il quotidiano che si definisce di ispirazione cattolica ed è un po' il quotidiano della CEI. Il titolo però non è tanto sulla frase sui carcerati, quanto il richiamo sulla frase, scusate, sui migranti, quanto il richiamo al giubileo di oggi, che è appunto il giubileo dei detenuti. Istituti di pena, via di speranza. C'è anche un riferimento all'intervento del ministro della giustizia Andrea Orlando: diamo più spazi e dignità ai carcerati. La fotonotizia però, che è quella di uno dei tanti barconi del Mediterraneo pieni di migranti, e sullo sfondo la nave che cerca di salvarli, è proprio su questa vicenda che dicevamo, il Papa, sui migranti, bancarotta di umanità. Questa è un'altra delle espressioni usate ieri da Papa Francesco. Molto bello l'editoriale di Danilo Paolini, che si intitola Oltre le sbarre, e ve ne leggo una breve parte. Cita in particolare due numeri per far capire quanta sia un'emergenza la situazione delle carceri in Italia, situazione per la quale peraltro il nostro paese è stato più volte richiamato a livello internazionale. Scrive Davide Paolini, due numeri in particolare, 47 e 652. Il primo riguarda i bambini che vivono in carcere, reclusi da innocenti in quanto sono recluse le loro mamme, e sono 47 di troppo. E poi a pagina 2, il secondo è il totale dei detenuti semiliberi che lavorano all'esterno, come autonomi o alle dipendenze di datori diversi dall'amministrazione penitenziaria, e sono davvero pochi. Poi ci sono gli uomini ombra, come si autodefiniscono gli ergastolani ostativi, cioè coloro che non hanno accesso ai benefici di legge, neanche dopo 26 anni consecutivi di carcerazione. E quindi la conclusione di Danilo Paolini, Danilo Paolini, che appunto si concentra su questa questione delle carceri, che secondo me è davvero un'emergenza nazionale, di quelle di cui si parla poco, perché la riforma delle carceri non si riesce a sbloccarla. E quindi conclude Paolini: un'occasione per battere un nuovo colpo la politica ce l'ha, ed è contenuta nella riforma del processo penale, che stenta a farsi largo tra i lavori del Senato per i veti incrociati all'interno della maggioranza. Ci sono almeno in potenza tutte le risposte che il mondo carcerario aspetta da anni. Poi ovviamente i decreti delegati andranno riempiti di contenuti, altrimenti sarà stato scritto soltanto l'ennesimo libro dei sogni. Ma intanto è uno sforzo che va fatto, perché in carcere e dopo il carcere ci siano solo persone e non più ombre. Corriere della Sera, come il Sole 24 Ore, titola sul voto americano: mossa anti-Putin. Questo è l'angolo scelto dal Corriere della Sera, perché gli hacker, questa volta americani, pare abbiano violato la rete del Cremlino. Siamo pronti, tutte e due le parti, Stati Uniti e Russia, dicono siamo pronti contro i cyberattacchi. Una impaginazione strana, inconsueta per il Corriere della Sera, che normalmente sulla sinistra ha sempre l'editoriale principale della giornata, che per oggi è diviso in due in realtà. Uno è di Antonio Polito, il modello inceppato, e si concentra su questa anomalia delle inchieste dell'FBI lanciate a pochissimi giorni dal voto, e poi un approfondimento invece di Beppe Severgnini, gli ultra di Donald. Severgnini è famoso in generale per le sue analisi sul mondo del Regno Unito, dove ha vissuto, è stato anche corrispondente per molti anni di giornali italiani da lì. Questa volta però si esercita sull'America e appunto racconta dal suo punto di vista, perché io credo che in realtà queste cose possano essere raccontate soltanto da chi ha vissuto in America negli ultimi tempi e per molti anni. In ogni caso, gli ultra di Donald di Beppe Severgnini. La Repubblica sceglie un titolo, un'apertura diversa, ed è quella del possibile accordo sull'Italicum, la legge elettorale, che sapete con questo termine secondo me orrendo, combinato, disposto, è diventato un po' il nemico, uno dei nemici della riforma costituzionale, perché chi annuncia, molte delle persone che annunciano di votare per il no alla riforma costituzionale lo fanno anche perché dicono che appunto il fatto che a questa riforma costituzionale si abbini la nuova riforma elettorale, la riforma elettorale che quindi dal Porcellum ci farebbe passare all'Italicum, è una combinazione deleteria. E quindi molti esponenti del PD, della cosiddetta minoranza Dem del PD, quella guidata da Bersani, che continua a dire che voterà per il no, sarebbero pronti a un accordo. E poi però c'è anche un accenno nello stesso titolo di apertura agli scontri che ci sono stati ieri a Firenze al corteo anti-Leopolda, la manifestazione voluta da Renzi ormai da molti anni. Quella di ieri, secondo la maggior parte dei commenti, è stata un'edizione in sottotono, e soprattutto è la prima volta che fuori dalla Leopolda c'è un corteo con, tra l'altro, molte violenze che sono state arginate dalla polizia, ma che comunque ci sono state. Dalla prima pagina vi segnalo anche un commento di Michela Marzano: il congedo dei papà che aiuta le donne. Sapete che ieri Tito Boeri, il presidente dell'INPS, ha ipotizzato di rendere obbligatorio il congedo di paternità per gli uomini, perché da quando è stato introdotto in Italia è stato preso da pochissime persone, pochissimi uomini, quasi si contano sulle dita di una mano. E allora l'ipotesi, visto che per ora è una scelta, la legge prevede che si possa scegliere di prendere il congedo di paternità, così come le donne possono prendere quello di maternità, appunto l'idea è quella di renderlo obbligatorio per vedere se così si potrebbe avere maggior successo, una sorta di, è lo stesso meccanismo, se vogliamo, delle quote rosa, cioè introdurre qualcosa per legge per idealmente raggiungere un obiettivo più in fretta di quello che sembrano fare le cose lasciate alla libera scelta dei cittadini. Vi segnalo per una volta l'editoriale di Scalfari della Domenica, fondatore di Repubblica ed ex direttore. Il titolo scelto è Renzi scongiuri il rischio di un Trump italiano. Non so quanti di voi abbiano visto qualche sera fa il confronto tra Eugenio Scalfari e Alessandro Di Battista sulla 7, dove Scalfari ha detto cose molto tranchant, diciamo così, sul Movimento 5 Stelle, e quindi qui torna su questa che sta, secondo me, diventando un po' una sua ossessione, perché paragonare il Movimento 5 Stelle a Trump è forse appunto un'esagerazione. E scrive poi a pagina 25 Scalfari: il vero e terribile avversario di Renzi e della sua politica in Italia e in Europa è il Movimento 5 Stelle. Con la legge elettorale attuale, i grillini, che non amano sentirsi chiamati così, avrebbero la quasi certezza di vincere al ballottaggio e anche di essere decisivi per la vittoria del no referendario. Il Movimento 5 Stelle non ha certo la forza esplosiva di un Donald Trump, soprattutto perché l'Italia non è l'America. Ci si chiede allora il perché di quel titolo, ma comunque. Ma un grillino alla guida dell'Italia, possiamo possiamo immaginare come si comporterebbe nel nostro paese, in Europa e in tutti i paesi extraeuropei, cioè nel mondo intero. Come vi dicevo, insomma, Scalfari è proprio appunto quasi ossessionato dalla possibilità di una vittoria del Movimento 5 Stelle. Vi segnalo che in edicola oggi con la Repubblica, come da circa 2 mesi, da quando è arrivato il nuovo direttore Tommaso Cerno, c'è l'Espresso, nuovo direttore dell'Espresso, e il titolo è Il paese dei condoni. L'illustrazione vede al centro uno dei personaggi più famosi della letteratura italiana, che è Pinocchio. Comunque il sommario dell'inchiesta che poi trovate all'interno è: nell'Italia del terremoto infinito c'è una sanatoria ogni 2 anni, edilizia, fiscale o penale, inchiesta su uno Stato che premia i furbi beffando gli onesti. Ci lasciamo però un attimo per una pausa, ci sarà anche il meteo, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine, vi dicevo alcuni giornali hanno in prima pagina anche la notizia della proposta di Tito Boeri, presidente dell'INPS, di rendere il congedo parentale per i padri obbligatorio per 15 giorni. Il giornale titola su quello che è successo ieri a Firenze: botte sul referendum, scontri tra gli antagonisti e la polizia, ma l'editoriale di Alessandro Sallusti, il direttore, è dedicato proprio a questa proposta di Boeri ed è intitolato «Fuori da casa nostra lo Stato che impone i mammi per legge». E vi segnalo, ve ne leggo una parte perché e poi vi leggerò invece quello che c'è scritto sulla stampa e su altri giornali, perché sono proprio due modi diversi di affrontare la questione, sia nei titoli che nel modo, nelle argomentazioni. Poi ognuno può scegliere quello che gli sembra più adatto. Scrive Sallusti: obbligare per legge uomini e donne a essere uguali è peggio che discriminare. Non solo va contro la natura, ma mina libertà fondamentali. Vogliamo, virgola, esigiamo che lo Stato si fermi fuori dalla porta delle nostre case, delle nostre vite, dei nostri rapporti. Lo Stato lavori all'ampliamento delle possibilità che hanno le famiglie e basta. Al resto ci pensano gli individui. Uomini e donne si scelgono tra loro in base ai sentimenti, si uniscono in famiglia dividendosi i compiti come meglio credono. Non vorrei che il prossimo passo sia che i carabinieri siano autorizzati a verificare se chi fa da mangiare, chi sparecchia, chi si occupa del bucato avvenga a norma di legge ed eventualmente procedere a denuncia. Scusi Boeri, ma se io non voglio fare il mammo e la mia compagna è d'accordo, cosa mi succede? Avviso di garanzia? Arresto? Qui aggiungo io, finissima ironia, pensi ad aumentare le pensioni, cosa per cui è ben pagato. Che se ieri, conclusione di Sallusti, che se ieri fosse stato a casa a fare le pulizie invece che sparare simili scemenze, sarebbe stato meglio per tutti. Fine della copertura del giornale su questa questione, che mette in prima pagina un altro titolo poco così tranchant, ed è riguardo al Papa. Su banche e immigrati il Papa fa il comunista, accusa che peraltro il giornale, tramite altri suoi giornalisti, ha fatto spesso a Papa Francesco. Vi dicevo, sulla stampa, che titola proprio sul Papa, emergenza migranti, l'ira del Papa, sempre in prima pagina c'è la proposta di Tito Boeri con subito un estratto del parere di chi è favorevole a questa proposta e di chi è contrario, e poi i due pareri li trovate a pagina 17. Chi dice sì è Linda Laura Sabatini: padre a casa per 15 giorni, bella idea, ma serve di più perché la condivisione sia reale. E invece Piero Paganini, che un po' esprime l'idea di Sallusti, ma lo fa con toni e parole diverse: non si può imporre per legge l'idea, anche se corretta, di come deve essere il mondo. A proposito di immigrazione, sulla stampa trovate una bellissima intervista al cardinale Scola, appena uscito il suo libro Un mondo misto, il meticciato tra realtà e speranza, e quello che dice Scola appartiene un po' a questa visione di la maggior parte degli esponenti della Chiesa, a partire dal Papa naturalmente, sull'immigrazione. Serve un piano Marshall per i profughi. Il piano Marshall, sapete, era quel piano che finanziato soprattutto, ma ideato dagli americani nell'immediato dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale, per far ripartire l'Europa. Quindi viene spesso usato come, appunto, quando si invocano riforme che hanno obiettivi molto ambiziosi e che sono adeguatamente finanziate. Serve un piano Marshall per i profughi, duri con l'Europa ci sta lasciando soli. Il Messaggero titola invece, come ha fatto il Corriere e il Sole, sul voto americano e si concentra in particolare su questa guerra degli hacker. In prima pagina anche una notizia che non ho trovato sugli altri giornali, un po' da mani sul volante: sorpresa statali, si allenta la stretta sui dirigenti della pubblica amministrazione. Quindi la tanto invocata riforma che avrebbe toccato anche alcuni privilegi nella pubblica amministrazione pare che poi nei decreti attuativi venga molto edulcorata. Riforma Madia, più tutele per chi perde l'incarico e si allungano i tempi dell'entrata in vigore a regime. Come vi dicevo, a pagina 17 trovate sulla Stampa, a pagina 17 della Stampa, la loro scelta di come affrontare questa proposta di Boeri. Prima la cronaca, con appunto le dichiarazioni di Boeri, e poi i due pareri. Il Giorno sceglie, come hanno fatto altri giornali, invece di titolare su quello che è successo ieri a Firenze, la guerriglia dei no Renzi. Sapete che nonostante il Premier abbia detto che, contrariamente a quanto aveva dichiarato all'inizio, il referendum non deve essere, il referendum costituzionale del 4 dicembre, non deve essere un sì o no al suo governo e a lui, in realtà ancora adesso molti pensano che sia così. Da qui la guerriglia dei no Renzi, corteo violento a Firenze, dove si teneva appunto alla Leopolda questa kermesse voluta ideata da Renzi ancora prima di diventare premier, che dovrebbe un po' riunire tutti i suoi sostenitori. Bombe, carte, poliziotti feriti, il sindaco Nardella, che è stato il successore di Renzi appunto come sindaco di Firenze, ha definito il tutto inaccettabile. La stessa scelta la fa il Fatto Quotidiano: Leopolda, sorrisi e bastoni, con una foto che c'è anche su altri giornali, appunto della polizia che cerca di arginare la manifestazione. Solo sul Fatto Quotidiano ho trovato quest'altra notizia di Alitalia, che sapete è la nostra compagnia aerea in perenne perdita, di cui ora la maggioranza appartiene a Etihad, il colosso degli Emirati Arabi dell'aviazione. Non si riesce a risanarla, ancora oggi si calcola che perda 100.000 euro al giorno, e adesso abbiamo anche un altro problema, scrive il Fatto Quotidiano: guasti, troppi motori degli aerei, 7 casi seri in 80 giorni, un piccolo record. Però l'ENAC, l'ente che della sicurezza aerea, ha risposto: nessun rischio. Libero, un titolo ancora diverso, dedicato alla questione dell'euro: lasciare l'euro e vivere felici, firmato da Paolo Becchi, che è un economista da sempre sostenitore dell'uscita dell'Italia dall'euro. La fotonotizia è dedicata a Daria Bignardi, perché sapete, scelta dai vertici della RAI come direttore di Rai 3 ormai da parecchi mesi. Molte però delle trasmissioni che avrebbero dovuto essere delle grandi novità e magari nei suoi auspici anche dei grandi successi, una per tutte Politics, quella che ha sostituito Ballarò del martedì, il talk show politico, in realtà non lo è stato. E adesso un flop pare essere stato anche la nuova versione di Amore criminale, prima condotta da Barbara De Rossi, ora da Asia Argento. Il titolo di Libero: la Bignardi ammazza un altro programma. Viene addirittura definita, a proposito di titoli forti, di titoli sobri, l'assassina degli ascolti. Cambia la conduttrice di Amore criminale, tutto quindi in tema, e la trasmissione passa dall'8 al 3%. Su Libero vi segnalo anche due articoli sulla questione di Radio Maria, che in qualche modo coinvolge anche Radio 24, perché questo un prete ha dichiarato, come avrete sentito, padre Giovanni Cavalcoli, un domenicano che ai microfoni di Radio Maria ha detto che c'è un collegamento tra il terremoto che ha colpito il centro Italia a partire da domenica scorsa, perché poi sappiamo che lo sciame sismico è continuato e continua, quindi a partire da domenica scorsa proprio a quest'ora, erano le 7:41, ora sono le 7:43, ebbene ci sarebbe un collegamento con l'approvazione delle unioni civili, perché sarebbe quindi un castigo di Dio per il fatto che l'Italia ha approvato le unioni civili. Antonio Socci scrive: ma per tutti i cristiani sono parole intollerabili. E trovate poi l'articolo a pagina 12. Siccome dico perché la questione ha coinvolto anche Radio 24, perché poi a Radio 24 alla Zanzara questo prete, nonostante già dopo le prime dichiarazioni fosse stato molto criticato, ha ribadito la stessa tesi. E allora Giuseppe Cruciani, che collabora con Libero, firma l'altro articolo sulla questione, sempre in prima pagina e sempre continua a pagina 12: Radio Maria si rinnega, ora può anche chiudere. E trovate poi appunto tutto a pagina 12 di Libero. La Verità, un titolo completamente diverso. Sapete, La Verità è un quotidiano fondato da Maurizio Belpietro ex direttore di Libero più di un mese fa ormai, è un quotidiano di opinione, dichiaratamente di opinione, e fa questa scelta molto interessante dal punto di vista così anche mio di giornalista, che vedo come stanno cercando i quotidiani di reagire un po' alla crisi delle vendite che abbiamo avuto tutti, al calo delle vendite, magari non proprio crisi, legate naturalmente alla rivoluzione di internet. La Verità ha sempre dei titoli diversi che fanno riferimento a un'inchiesta scelta appunto, quindi non il titolo principale che trovate sugli altri giornali, ma sempre qualcosa di particolare. Oggi un'altra indagine sul padre di Renzi. Secondo quanto risulta alla Verità, la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo che ruota attorno a un personaggio misterioso che è vicino al padre di Renzi, che sapete già al centro di altre inchieste, un filone molto seguito dal Fatto Quotidiano. Adesso però ci fermiamo un attimo per la pausa sul traffico, che ci siamo persi alle 7:15. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, passiamo all'ultima parte della nostra rassegna. Abbiamo pochissimo tempo oggi, quindi vi segnalo alcune cose dalle pagine interne dei quotidiani e poi tutti i supplementi culturali, partendo naturalmente dal nostro, la Domenica del Sole 24 Ore. Dal Sole 24 Ore però la copertina di Imprese e Territori, un racconto di Mariano Maugeri, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, inviato a Norcia, vicino a Perugia, e dove ha raccolto tanti pareri. Il titolo scelto per il reportage: il turismo colpito punta a tornare a pieni giri a Pasqua. A questo punto infatti, secondo gli operatori, il Natale è da considerarsi perso, però c'è già questo obiettivo della primavera. E poi una notizia sempre di cronaca di ieri, ce la racconta Michele Romano, che era ad Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, dove Andrea Della Valle e Diego Della Valle del gruppo TOZ hanno firmato il contratto per il terreno dove sorgerà la fabbrica ad Arquata, fabbrica del gruppo, una iniziativa che è stata lanciata circa un mese fa proprio per dare un segnale forte subito della volontà degli imprenditori, soprattutto della zona, perché la TOZ è proprio delle Marche, di dare il contributo facendo ripartire il lavoro e quindi l'economia. Le pagine di Sport e Business, una novità di poche settimane, da 3 settimane che c'è, del Sole 24 Ore. La pagina di Sport e Business, appunto, che esce il sabato e la domenica, oggi non poteva che essere dedicata alla maratona di New York, che si tiene proprio oggi. Si parte da quella per spiegare come le maratone corrono veloci, le big valgono più di un miliardo. Al via oggi al ponte di Verrazzano i 50.000 della New York City Marathon. Ma vi dicevo, tanto di domenica avete tempo, sfogliati i giornali, ci sono tantissimi temi interessanti. Una sola cosa vi segnalo dall'Avvenire, perché come sempre meritoriamente si occupa di situazioni che agli altri giornali così sfuggono, ed è Haiti. Dopo Matthew, l'uragano che ha colpito il paese un mese fa, ci sono ancora 1.000 vittime che non bastano a commuovere il mondo, perché di fatto a Haiti non c'è più cibo. Con i raccolti distrutti nel sud, appunto, manca il cibo, ma gli aiuti arrivano con il contagocce e la gente esasperata assalta i convogli. E tutto questo avviene senza che appunto quasi noi ce ne accorgiamo o ne veniamo a conoscenza. Vi dicevo i supplementi culturali, cominciamo dalla Domenica e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Guerra. E parte da una citazione di Renato Serra, che faceva il critico letterario ed è poi morto in guerra. La guerra non cambia niente, non migliora, non redime, non cancella, non fa miracoli, non paga i debiti, non lava i peccati. A partire dall'oraziano dulce et decorum est pro patria mori, che vorrebbe dire decoroso e dolce morire per la patria, è immenso il fiume della retorica marziale e nazionalistica. Una sferzata a questa enfasi è inflitta dalle parole che abbiamo desunto dall'esame di coscienza di un letterato, un saggio pubblicato da Renato Serra nel 1915, anno della sua morte a Podgora, durante il primo conflitto mondiale. La sua è quindi una confessione tutt'altro che retorica, perché suggellata dal sangue. Franklin era convinto che non ci sono mai state una buona guerra o una cattiva pace, e Papa Giovanni XXIII osservava che le madri e i padri detestano la guerra, capace com'è di sconvolgere l'ordine naturale della vita e della morte. Sono quindi da meditare le parole dell'ancor giovane soldato Serra, che a 31 anni vedrà nella guerra un mostro che non compie nessuna catarsi, così come accade per ogni violenza o vendetta. La copertina vera e propria è dedicata a un saggio, a un libro di Imre Kertész, premio Nobel per la letteratura ungherese, che è scomparso in marzo, intitolato Capiremo ancora l'innocenza di Lot. È un estratto da questo libro. Lot naturalmente è il patriarca della Bibbia, nipote di Abramo, che fu salvato da Sodoma prima della distruzione da due angeli. Quindi l'idea, appunto, se arrivasse un angelo lo capiremmo ancora, questo per spiegarvi il titolo, ma è naturalmente un libro ricchissimo di riflessioni, testamento intellettuale viene appunto definito. Il memorandum del nostro direttore Roberto Napoletano, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, è un racconto della Lectio Magistralis che Luca Maestri, della Chief Financial Officer della Apple, quindi sostanzialmente il numero due della Apple, è italiano, ha studiato alla LUIS, si è laureato lì, è stato scelto come alumnus dell'anno, ha tenuto una lezione, Roberto Napoletano era lì e ce la racconta. Luca Maestri, Cupertino, la LUIS e quella pizzeria sulla Nomentana, perché Luca Maestri è di Roma e quindi quando torna a Roma, così come nota appunto di colore, di un racconto in presa diretta, va ancora in questa pizzeria. Vi segnalo dal Sole 24 Ore, perché anche questa è una novità varata insieme a Sport e Business, quindi siamo alla quarta settimana, le quattro pagine dedicate ai lettori più piccoli. Il supplemento si intitola C'è qualcosa che sa leggere, c'è qualcuno che sa leggere. In questo quarto numero vi segnalo soprattutto, molto divertente, io bambina non sono più da tempo, ma credo che lo farò, la pagina 2, perché è un fumetto di Topolino, ma le nuvolette sono vuote, quindi chi vuole si può divertire a farlo. È un gioco per bambini ma anche per grandi, è per esempio quella di inventarsi appunto le battute dei personaggi dei fumetti o delle vignette, un gioco per esempio che ha lanciato negli Stati Uniti anche il New Yorker, che lo fa ogni settimana con grandissimo successo. La lettura del Corriere della Sera affida come sempre la copertina a un artista, questa settimana è Ugo Rondinone, dall'interno anche come sempre molto ricco anche questa settimana, vi segnalo un articolo di Jonathan Safran Foer, che è l'autore di Ogni cosa è illuminata, ma adesso è uscito il suo nuovo libro che si chiama, oddio, l'ho anche comprato perché ho troppo in mente Molto forte, incredibilmente vicino. Questo invece si chiama Eccomi, è un grande successo, è appena uscito ma è già un grande successo, e qui l'articolo che viene tradotto dal Corriere della Sera si intitola I miracoli si imparano. L'attenzione è la generosità più pura, ma ce ne siamo scordati. Solo se i nostri cuori meritano d'essere salvati, vivremo davvero. Quindi un invito all'ascolto nell'epoca in cui forse siamo un po' distratti e poco propensi ad ascoltare per più di poche decine di secondi, anche per via insomma dell'influenza delle tecnologie che spezzettano un po' qualsiasi tipo di messaggio. Ultimissima segnalazione sempre dalla lettura, la grafica si mette a tavola, accomodatevi, una mostra che c'è a Milano, dal 9 novembre appunto dedicata alla grafica. Purtroppo oggi, come dicevo, pochissimo tempo, vi saluto quindi, vi auguro ancora una buona domenica, grazie a Carmelo Lauricella in regia e a risentirci a presto da Giulia Crivelli.